24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 30 secondi di questo mercoledì 15 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci ascolta. Mattina densa perché avremo appunto molti politici. Sì, avremo Stefano Bufagni. Da intervistare. Avremo Stefano Bufagni, vice ministro dello sviluppo economico, e poi ci sarà Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria, per raccontarci un po' come stanno andando le cose da quelle parti. E ovviamente avremo voi, 349-238-6666, per i messaggi WhatsApp, SMS, WhatsApp audio, e poi il 800-24-0024 se volete intervenire in diretta, e ovviamente c'è anche la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Cara Maria, hai visto che ricomincia qualche problema nella maggioranza all'ombra del MES, il meccanismo europeo di stabilità? È vero. Qualche problema c'è più nella maggioranza a questo punto che non nei rapporti tra maggioranza e opposizione. O meglio, è interessante vedere che mentre in altri paesi l'opposizione per il momento è silenziata, Joe Biden è praticamente sparito, è tornato ieri sulla scena perché c'è stato il supporto di Obama. In Francia Marine Le Pen sta zitta, la stessa cosa in Labour in Gran Bretagna. In Italia abbiamo visto che Salvini e Meloni invece erano tornati all'attacco, ma ieri c'è stata qualcosa di importante, c'è stata l'uscita di Berlusconi, ospite di Floris di martedì, che in pratica ha rotto il fronte delle opposizioni contrario al meccanismo europeo di stabilità e ha detto no, noi dovremmo poterne avvantaggiarci. E su questa posizione c'è la posizione di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, che dice ma quelli sono soldi che ci servono per la sanità, come non prenderli? Perché non dovremmo prenderli? Attenzione, perché il Movimento 5 Stelle, che si è schierato da sempre contro il ricorso al meccanismo europeo di stabilità, a questo punto si ritrova sullo stesso fronte di Salvini e della Meloni. Quindi siamo o alla vigilia di un'altra retromarcia del Movimento 5 Stelle, ma appunto ne parleremo tra poco con Stefano Bufagni, vedremo qual è l'aria che tira in quel movimento, oppure siamo alla vigilia di un possibile cambiamento di maggioranza. Nelle situazioni di emergenza tutto si può fare tranne che cambiare governo, non ora, però questi segnali, ripeto, quello che ha detto Berlusconi è indicativo di un atteggiamento molto, molto più morbido e chiaramente europeista di Forza Italia, che potrebbe essere rivelatore di cambiamenti. Di qualche cambiamento. Stefano Bufagni, vice ministro dello sviluppo economico, buongiorno. E perché non dovremmo prenderci 30 miliardi a un tasso ridicolo per finanziare la sanità? Buongiorno a tutti, ma perché non sono mica soldi regalati, cioè, si tratta di ulteriore debito che verrebbe dato all'Italia in cambio comunque di alcuni limiti che sono previsti dai trattati e che se uno non vuole applicare o non vuole dover subire deve cambiare i trattati, altrimenti se no sono solo parole. Noi crediamo che innanzitutto sia un'azione di responsabilità vera quella di Berlusconi, che ha ammesso fondamentalmente di averlo fatto lui, quel provvedimento, insieme alla Lega e a Fratelli d'Italia quando governavano assieme. Quindi questo credo che bisogna ricordarlo a Salvini e Meloni. Dopodiché noi crediamo che in questo momento l'Italia debba seguire le strade. Poi che la Spagna e il Portogallo lo vogliono utilizzare è legittima scelta, motivo per il quale noi non andiamo in Europa a fargli la guerra, perché sono i nostri alleati per la partita dei recovery fund. Maria, prego. Senta Bufagni, il punto è che l'Italia con i suoi mezzi, con le sue risorse, non ce la farebbe a prepararsi a una nuova ondata, non dico di coronavirus, tutti ci auguriamo che non ci sia, ma comunque di una nuova pandemia. E è anche vero che dipende da quando e da quali condizioni sarebbero poi poste per farci utilizzare questi soldi per la sanità. Le faccio un'ipotesi. Se la restituzione del debito fosse a 30 anni, a 40 anni, non ci converrebbe comunque prendere questi soldi e fare quello che purtroppo negli ultimi decenni non si è fatto sul fronte della ricerca e della sanità? Io continuo a ribadire che noi oggi abbiamo bisogno di avere uno strumento che permetta all'Italia e a tutta l'Europa di ripartire dopo questo disastro, motivo per il quale il tema dei Eurobond, ma che non piacciono come nome in alcuni paesi del nord, allora i recovery fund devono servire a far ripartire il paese, far ripartire l'Europa. L'idea di dover per forza accedere a uno strumento che ci metterà dei limiti grossissimi e che dovrà pagare pure mio figlio fra 30 anni mi sembra irresponsabile, tanto quanto quei fenomeni hanno regalato soldi a destra e a sinistra negli anni 70 e 80, che oggi noi ci troviamo come generazione in particolare. Ma mi scusi Buffagni, però se finanziamo gli interventi a deficit è la stessa cosa, cioè non è il nostro, mio figlio fra 30 anni non paga quel deficit è la stessa cosa, eh? No, scusi, cioè un conto è che io mi espongo a debito con un paese che è in grado di sostenerlo, un conto che io mi espongo a debito con un debito che però per ripagarlo devo rispettare delle condizioni molto stringenti o delle regole che mi vengono imposte dall'Europa. Scusi, io non capisco perché noi ci dobbiamo fare da soli il cappio con una corda che ci vogliono dare in un momento di difficoltà per strozzarci fra un po' di tempo. Cioè io le assicuro che non capisco, tra l'altro con 35 miliardi l'Italia, visto che solo nel prossimo mese ne avremo bisogno di più di 40, non credo che sia lo strumento adeguato a questa fase storica. Però il mercato non glieli regala i soldi, Buffagni, questo. Guardi, dico. Non ho mai trovato nessuno che ce li regala, non so se lei ha avuto questa fortuna, ma non ce li regala neanche il MES, che ha, ripeto, dei limiti. Poi non capisco perché tutti debbano parlare di questo quando bisogna capire, per esempio, per il decreto aprile come utilizzare le risorse e via discorrendo. Guardi, io sono molto preoccupato da questa situazione, credo che il Paese abbia bisogno di un dibattito su come ripartire in fretta, in maniera intelligente, perché ci sarà una nuova normalità da parte per tutti i cittadini. Ecco. Il punto è questo, Buffagni. Poniamo che si continui, io non ci credo, ma poniamo che si continui poi a dire no al fondo salva stati e che quindi Conte tenga ferma la sua posizione. Vedo due ipotesi. La prima politica, vale a dire a un certo punto potrebbe esserci un cambio di maggioranza? Le parole di Berlusconi di ieri qualcosa fanno intuire. Prima domanda. Seconda domanda. Se così non fosse e facessimo da soli, lei pensa che per esempio gli italiani potrebbero sottoscrivere dei buoni del tesoro a lungo termine che da un lato diano delle garanzie a chi li sottoscrive e dall'altro aiutino il paese? È un'ipotesi che è stata fatta da molti, segnatamente anche da Salvini. Quindi le chiedo due cose. Un cambio di maggioranza si può profilare se continua il no al MES? Conte lascia la scena. Secondo, è questa l'ipotesi in subordine, cioè chiedere agli italiani di sottoscrivere in pratica un aiuto al loro paese? Allora, per quanto riguarda la maggioranza, è bellissimo da leggere magari sui giornali tutto questo ragionamento, ma poi esistono il Parlamento e ci sono dei numeri e io non vedo alternative diciamo a maggioranze senza il Movimento 5 Stelle, quindi se Berlusconi vuole andare con PD e fare avanza calcio mi sembra più un racconto da parte dei giornalisti che non dati fattuali all'interno del Parlamento. Per quanto riguarda l'emissione di bond e BTP ad hoc, innanzitutto lei sa meglio di me che gli italiani già comprano i titoli di Stato perché sanno che sono sicuri e hanno un buon rendimento. Dopodiché se c'è da fare una misura ad hoc si ragioni, mi pare che ieri abbia già annunciato il MEF uno strumento che si chiama Bond Italia, sul quale voglio capire cosa si tratta, quindi non è chiaramente però sostitutivo rispetto alle esigenze complessive del paese e dell'Europa. Qui continuiamo, secondo me, a staccare il focus da un'esigenza che abbiamo come continente. Cioè questo è un continente che se non decide di ripartire tutto unito pagherà un conto salatissimo, perché abbiamo due player come Cina e Stati Uniti che ci schiacciano alla velocità della luce. Cioè lei come pensa che un paese come l'Olanda da sola sul mercato possa fare qualcosa se non viene schiacciata poi dagli altri così piccolo? Al posto di fare dumping fiscale all'Italia o alla Germania si troverebbe in un mondo talmente globalizzato che è una pulce, no? Un po' come anche noi da soli siamo meno forti che all'interno di un'Europa che decide di ripartire unita. Quindi io non vedo perché dobbiamo per egoismi continuare a fare dei ragionamenti da nani, da giardino. Mi ha fatto piacere per esempio Schröder, che è uscito, l'ex cancelliere, che è uscito a dire che la Germania deve capire che è un momento storico in cui bisogna fare insomma qualcosa di europeo, considerando che nessuno sta chiedendo agli altri paesi di prendersi in carico il nostro debito, che è sostenibile, ce lo paghiamo da soli. Ma se servono più di 1.000 miliardi, non c'è MES che tenga. Qui stiamo parlando di un problema per l'intero continente. Bufagni, le faccio un'altra domanda sul MES e poi passiamo a cose anche un po' più afferenti al suo ministero, perché le insomma piace proprio il MES comunque. Ma semplicemente che non ci sono alcuni elementi del ragionamento che per così dire fatico a cogliere. Insomma, nel momento nel quale vengono tolte le condizionalità, quelle famose delle riforme strutturali, per così dire l'effetto Grecia, tanto che due paesi come Spagna e Portogallo, che di fatto dalla Troica sono passati a un programma di assistenza, sono passati, decidono di ricorrervi. Veramente non, e l'unica condizionalità è l'utilizzo per spese sanitarie. Io non riesco a capire perché non farvi ricorso. Cioè, i quattrini ci sono disponibili, gli eurobond comunque sono, se si fanno, il recovery fund, lo chiami come vuole, insomma, sono comunque una prospettiva di medio termine, non sono una prospettiva immediata. Dunque, tutto sommato, uno intanto questi soldi a tasso basso se li prende. Ma io capisco, ripeto, perché mi piace proprio l'idea che ci dobbiamo infilare in un tunnel dove qualcun altro ci debba dire cosa dobbiamo fare. Non so, deve essere che c'è qualcuno che ha una recondita esigenza di tornare al periodo Monti. Dopodiché la Spagna e il Portogallo hanno utilizzato lo strumento e quindi evidentemente loro hanno già fatto quelle riforme che qualcuno gli ha imposto. Noi riteniamo che se c'è anche un'agevolazione all'accesso, ma poi c'è la condizionalità nel ripagarli, rischiamo di fare un danno al paese. Allora credo che in questo momento il paese debba capire, discutere su dove andare, cosa fare, come rispondere, come reagire, ripeto. Poi io, per l'amor del cielo, io capisco le legittime soprattutto posizioni. Bufagni, credo che il paese debba capire a quali eventuali condizioni dovrebbe poi essere ripagato, probabilmente tra 20 anni o 30 anni, questo debito, perché un conto è che ci dicano: bene, allora cedete tutte le vostre aziende utili, dalla filiera agroalimentare ai gioielli. E un altro conto è che ci dicano: fate immediatamente quelle riforme dalla burocrazia alla pubblica amministrazione alla scuola che non avete fatto. In questo secondo caso credo che molti italiani forse sarebbero anche contenti che ci fossero poste queste condizioni. Lei che dice? Anche dottoressa, se fossero quelle le condizioni sarebbero condizioni ridondanti rispetto alle esigenze del paese. Le condizioni sono ben diverse, come lei può immaginare, ma nessuno oggi le può definire perché ovviamente non è previsto quali sono. Ma da sempre anche solo la contrattazione decentrata dei contratti di lavoro è un tema che è molto spinto dalla Commissione Europea o dal Fondo Monetario Internazionale. Non credo che l'Italia sia nelle condizioni di accettare una proposta di questo genere, solo per fargliene una che non è lacrime e sangue in termini economici. Quindi attenzione, cioè non semplifichiamo, perché poi è facile fare questi tipi di ragionamenti, ma noi abbiamo una responsabilità di governo e la affrontiamo con serietà. Non ci possiamo basare su degli impegni fatti a livello politico, perché poi i trattati europei sono quelli che in fase di difficoltà contano. Quindi se si vuole cambiare i trattati europei, bene, ci si lavori per togliere le condizionalità. Dubito fortemente, visto la procedura che richiede questo tipo di percorso. Senta Bufagni, veniamo alle questioni che, come si diceva, che riguardano più strettamente il suo ministero. Oggi il Sole 24 Ore ci parla, tra le altre cose dei prestiti, quelli fino a 25.000 euro, ossia quelli garantiti al 100% stando al decreto liquidità, e ci dice anche in un pezzo di Carmine Fotina che il rischio è che ci siano risorse solo per 300-400.000 microimprese e partite IVA. Cosa ci dice su questo fronte? Ogni tanto mi viene da domandarmi perché in Italia cerchiamo sempre di farci del male da soli e spararci addosso quando abbiamo uno strumento che funziona, è a disposizione ed è operativo garantendo il 100% delle risorse fino a 25.000 euro per tante piccole e medie imprese che oggi hanno una difficoltà. Noi abbiamo immediatamente attivato uno strumento, dopodiché tra poche settimane verrà fatto lo scostamento di bilancio e verranno messi altri miliardi su quel fondo. Quindi il problema non è quanti soldi ci sono, perché i soldi non sono un problema oggi e non lo saranno neanche il mese prossimo. Il problema è riuscire a fare in modo che le banche accelerino l'erogazione il prima possibile. Noi in 3 giorni siamo riusciti ad avere l'ok della Commissione Europea, perché mentre scrivevamo il provvedimento avevamo già aperto una trattativa da un lato con loro, dall'altro con le banche, per renderlo subito esecutivo. Quindi il tema è, al posto di che venga, cioè, al posto di continuare a cercare sempre, ripeto, sempre il pelo nell'uovo. Il nostro mestiere, Buffagni, è il nostro mestiere, facciamo i giornalisti, il pelo nell'uovo lo dobbiamo cercare. I giornalisti devono informare, quella è una cosa che hanno detto ieri i miei colleghi commercialisti, che io ho ritenuto un errore, è una cosa sbagliata, perché i soldi ci sono, vanno spesi, prima iniziamo a lavorarci. Guardi che in 2 settimane sono sicuro che non viene occupato nemmeno il 50% delle disponibilità del fondo strutturale di garanzia, che aggiungo, a sezioni separate per i piccoli, per i medi. Noi stiamo parlando di risorse importanti che si possono attivare. Fino ad oggi abbiamo ricevuto, mi pare, non le vorrei dire un numero sbagliato, quindi evito, perché non riesco a leggerlo ovviamente parlando al telefono con voi. Beh, certo. E tra moratorie e quant'altro, mi sembra anche solo le moratorie, che sono praticamente quasi tutti i finanziamenti che abbiamo in Italia e sono contrattati anche lì dal Fondo Centrale, sono state accettate tutte. Quindi anzi io direi bravo Mise, che hai messo in campo uno strumento che è subito operativo e che funziona. Perché poi non ci siamo inventati nulla di nuovo, abbiamo potenziato uno strumento che già c'era prima, garantendolo in automatico, accelerando praticamente a zero i giorni per renderlo operativo. Quindi le banche ce l'hanno già funzionale. Ieri qualcuno è andato a cercare la polemica sul sito che non funzionava, ma mica si fa una domanda sul sito. Cioè, le assicuro, a me sembra veramente che ogni tanto ci dovremmo amare di più come Italia e dire dobbiamo ripartire, funziona questo, facciamo così, facciamo colà. Poi per l'amor di Dio, che i giornalisti facciano il loro lavoro, benissimo. Ma forse in questo caso mi sembra che mi permette un buco dell'acqua. Senta, vediamo già infatti al lavoro il solito metodo demolitorio che spesso fa sì che ci si consideri un po' tafazzisti noi italiani. Parlo della task force che è stata introdotta proprio in questi giorni e che vede Vittorio Colao alla guida. Allora, Vittorio Colao è un manager di riconosciute capacità. È un fatto positivo che l'Italia una volta tanto voglia riconoscere a un suo cittadino queste capacità. Sarebbe opportuno che poi non remasse contro, mentre si vede già che cominciano a dire ma la task force è troppo numerosa, ma ce ne sono troppe. Allora, secondo lei converrebbe che Colao diventasse un ministro del governo, o questo limiterebbe ulteriormente la sua capacità di dare una mano con le sue competenze, che sono tecnologiche, ma sono anche di un manager che ha amministrato globalmente una super azienda come Vodafone? Innanzitutto, poverino, lasciamo lavorare, appena iniziato già gli cambiamo tutto. Tolta la battuta. Credo che il Presidente abbia fatto una scelta che ha ritenuto utile per avere un contributo importante, magari multidisciplinare, per affrontare in maniera seria la riapertura. Credo che questo sia un elemento positivo, vorrei che si evitasse appunto la strumentalizzazione. Non credo debba diventare ministro, ci sarebbe un tema politico grosso come una casa e non ne vedo motivo. Dopodiché io credo che sia un contributo utile loro, come il contributo utile dei Politecnici di Milano e Torino, col quale il Mise si è già attivata, proprio per aiutare solo le imprese, mentre chiaramente la Presidenza del Consiglio deve coordinare una serie di priorità su appunto multidisciplinari. Credo che questo sia il momento in cui il Paese ha bisogno dell'aiuto di tutti. perché guardi che saranno fondamentali apporto di supporto da tantissime realtà, ci sarà l'esigenza psicologica per le persone, ci sarà l'esigenza sanitaria, ci sarà l'esigenza di progettazione della nuova catena della gestione alimentare e sanitaria, quindi c'è bisogno di tante realtà. Certo, sarà fondamentale riuscire a coordinarla, però ritengo anche che la politica debba anche far valere il proprio ruolo, altrimenti mi domando, va bene che lì abbiamo tagliato i parlamentari, ma mi domando un attimo poi perché sono lì, quindi nel senso io non mi sento assolutamente messo in discussione su questo tema, credo che i contributi utili siano fondamentali, poi ripeto, secondo me io eviterei di avventurarmi su terreni molto pericolosi politicamente. Grazie Stefano Buffagni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, per essere stato con noi. Domanda ancora. Sì. No, ho una domanda ancora per Buffagni, perché è milanese e vorrei sapere che cosa pensa di questa inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, dove hanno perso la vita 143 persone. L'inchiesta è per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo. E l'ipotesi è che si perseguissero, l'ipotesi dell'inchiesta, ovviamente vedremo se fondata, si perseguissero maggiori guadagni per ogni paziente Covid. Secondo lei come ne uscirà il modello Lombardia della sanità? Premesso che ringrazio i magistrati che fanno il loro lavoro, come tutti gli infermieri, personale sanitario e chi ha lavorato e sta lavorando per noi. Mi auguro che finisca con un nulla di fatto. Certo è che questa cosa mi preoccupa molto. In Lombardia siamo arrivati a più di 10.000 morti, evidentemente un modello tanto decantato ha evidenziato dei limiti. Credo che dopo questa situazione grave del Covid andranno fatte delle modifiche, perché una sanità troppo ospedale-centrico e meno presente sui territori crea danni. Ricordo che nello scorso governo ci fu qualcuno che disse che i medici di famiglia non servivano neanche, poi insomma invece noi riteniamo che i presidi territoriali, oltre al medico di famiglia, siano determinanti. Al contempo credo che, come ha detto il Presidente Mattarella, in questo momento bisogna essere uniti. Certo è che un assessore che appunto appena viene riempito di un po' di attenzioni mediatiche pensa a passare la giornata in televisione a candidarsi a sindaco di Milano quando ci sono 10.000 morti, credo che si giudichi da solo. Ecco, io la ritrovo vergognosa come scelta, ma in questo momento, ripeto, gli italiani e i lombardi vogliono che risolviamo i problemi. 10.000 morti non si dimenticano, è un colpo al cuore. Io conosco personalmente alcune persone, ho dei malati che sono addirittura vicini di casa, insomma, dell'alta scala, quindi credo che sia una situazione che tocca l'aspetto umano. Non è il momento di dividerci, ci sarà quel momento per fare i conti, però sicuramente. Grazie Stefano Buffagni. Dunque, con un po' di ritardo andiamo alla pausa e poi con Giovanni Toti, presidente della Liguria. Grazie Buffagni, buona giornata, buon lavoro. Mattino. Non vogliono il MES perché sarebbero obbligati a spendere i soldi per la sanità e non per i loro soliti regalini elettorali. L'opposizione al MES deriva dal fatto che oggi non ci sono condizioni, ma verranno imposte, non si sa ancora con la maggioranza, con la maggioranza del 60 o dell'80 degli altri paesi, per cui ad oggi noi non sappiamo quello che ci succederà. Se i fondi dell'ISM sono da restituire, perché non vengono dati gratuitamente, i BTP emessi invece cosa facciamo? Facciamo una bella decapitata dei risparmiatori per non restituirglieli? A un tasso più alto, peraltro. Oh, perché cara Maria, il punto è proprio questo, perché poi qualcuno dice ah, voi siete, come dire, servi dell'Europa perché volete il meccanismo europeo di stabilità. Allora, se il capo dell'Eurogruppo, il presidente dell'Eurogruppo dice che sarà senza condizioni eccetto le spese per la sanità, il tasso è basso, il prestito è a 30 anni, ma non vedo perché mi devo indebitare con i BTP miei andando sul mercato e rischiando di pagare dei tassi più alti quando posso avere comodamente un prestito per le spese sanitarie di quelle dimensioni. Non è chiarissimo. L'operazione BTP potrà comunque essere utile, sì, forse per indispensabile, carità, perché non è che risolviamo tutto con la spesa sanitaria, però certamente quello che dobbiamo capire è che la pandemia di cui siamo vittime oggi non sarà l'ultima, e quindi farci ritrovare di nuovo meno pronti di quanto non si sia rivelata per esempio la sanità tedesca avrebbe dei costi in termini di vite umane e anche dei costi per l'economia del paese. Dunque meglio essere previdenti. Tuttavia vediamo come si svilupperà il dibattito. Un giornalista può avere un'opinione, dopodiché è interessante vedere come si svilupperà. Certamente. Alessandro da Firenze, buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Senta, prima c'era il Buffagni e volevo chiederle in diretta una cosa semplice. Lui ha detto i soldi ci sono perché dobbiamo fare polemiche, eccetera, eccetera. Allora io ho mandato un messaggio stamattina al mio amico direttore di banca chiedendo il tasso di interesse a cui la banca farebbe questo finanziamento di 25.000 euro. Io da oggi posso fare la domanda e non so ancora il tasso di interesse della banca. I miei clienti me lo chiedono, io cosa gli rispondo? Appunto, in questo momento Alessandro credo che lei non gli possa rispondere, anche perché, devo dirle la verità, lo strumento non è ancora pienamente operativo. Si stanno definendo, su questo va chiarito, stanno definendo le ultime cose. Trovate molti spunti, come dicevo oggi, sul Sole 24 Ore, a pagina 2 con Carmine Fotina, poi a pagina 3, poi ovviamente tutto sull'online. Laura Serafini ci racconta, per esempio, che stanno ancora attrezzando il sistema informatico, perché poi anche qua, anche sto paese, insomma, il sistema informatico non è ancora pronto, per così dire, ad accogliere le domande. Il tasso dovrebbe essere intorno, mi pare, all'1,2%, se non vado errato. L'unica cosa per la quale forse dovremo ringraziare questa tragedia del Covid-19 è che ci sta costringendo tutti, aziende e individui, a diventare più tecnologici, quindi un pochino a recuperare il gap che l'Italia aveva rispetto alle nuove tecnologie e le banche, che forse erano un passo avanti in questo processo, adesso dovranno dimostrare di essere al servizio anche di una concessione rapida dei prestiti, perché qui stiamo parlando di settimane, non possono passare mesi per tante aziende. Posso dirti Maria, non possono passare nemmeno settimane, è questione di giorni. Cesare dalla provincia di Verbania Cusio Ossola, buongiorno Cesare, eccoci. Buongiorno. Prego. Scusate, stamattina sono, non dico depresso, ma viene. Allora, sono 40 anni che faccio questo lavoro, io ho brevettato degli utensili e li vendo. Allora, adesso sono in pensione, mi danno dopo 38 anni contributi 600 euro, va bene? Il lavoretto che continuo mi porta 500-600 euro e così tiro 1000, sa? Allora, io non ho diritto a un bel niente, ha capito? Perché siccome ho la pensione, no? Ma le tasse sul mio lavoro le pago per la miseria. Quindi io non avrò un bel niente. Quanto prende di pensione, Cesare? 620. 620. Adesso è in corso all'Inps una verifica che non è possibile. Questo attrezzo negli anni 80 lo vendevo a 5-6 mila pezzi all'anno. Fatturavo sui 100-120 milioni. Hanno smarrito i redditi. È una cosa vergognosa. Tra l'altro la Latella, dico, io ho avuto una causa civile, ho avuto bisogno di lei, il suo aiuto è stato zero, capito? C'era Giordano Bruno Guerri in quell'intervento e mi ha lasciato lì mezz'ora nel vuoto, ne parleremo se vuole. Senta, come imprenditore, mi perdoni, ma come imprenditore lei ha avuto dei momenti, come dire, positivi quando la sua piccola azienda andava bene? Certo, che cosa è successo poi? Che cosa è successo? Io avevo redditi, io ho brevettato, ho inventato questa tinta. Mi sono fatto una cosa che penso non ci sia molta gente all'altezza di creare utensili, di farli. Poi c'è stata una causa civile di 14 anni, e l'avevo chiamata in una trasmissione, mi volevano portare via la casa. Torino, per fortuna, hanno cancellato la sentenza dei giudici di Verbania, ma io sono stato distrutto in quegli anni lì, va bene? La causa dall'86 al 2000 è durata. Io uso la parentesi, dico, io non ho indennizzo, vorrei che almeno noi, dato che paghiamo come lavoratori autonomi, paghiamo le tasse, perché non ci devono dare questi 600 euro? Le aggiungo un'ultima cosa. A maggio io ho 700 euro di contributi da versare INPS, ma non è vergognoso che io pago 3.000 euro all'anno di contributi dopo aver acquisito la pensione? Attualmente io ho 12.500 euro versati all'INPS. tra 5 anni mi calcoleranno l'aumento. Ma è cosa da pazzi, da pazzi. Cesare, grazie per la sua testimonianza. Grazie per la sua testimonianza. Ci scrive un altro ascoltatore: anch'io come dipendente part time e libero professionista non ho diritto a niente. Abbiamo anche 2 WhatsApp audio, sentiamoli. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Peter, vai. Il problema grosso è che questi vogliono i bilanci del 2019 che nessuna azienda, libero professionista o partita IVA in generale, ha pronti, perché il bilancio 2019, le dichiarazioni 2019, quelli ufficiali, non possono essere ancora pronti, mancano le specifiche, circolari, i moduli, i commercialisti non sanno assolutamente dove fare a mandare, danno le specifiche migliori oppure no, non è possibile. Certe banche che rispondono picche, caro ministro, vigilate sulle banche, vigilate che i soldi non vadano sempre alle grosse industrie e le piccole e medie dovranno chiudere. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. Maria, buongiorno. Prego. Toti, la Liguria è una regione ad altissima densità di anziani, con dei problemi economici annosi, perché è dagli anni 70, quando cominciò la dismissione delle grandi aziende pubbliche, che la Liguria si trascina dei problemi economici enormi. E il turismo, che è una fonte di reddito per tante famiglie, verrà messo a dura prova dal Covid-19. Io vorrei partire proprio dal turismo. Lei ha dato l'ok alla sistemazione degli stabilimenti balneari, come pure ha dato via libera ai piccoli cantieri, quindi vuol dire che prevede, al contrario della commissaria UE Ursula von der Leyen, che quest'estate quantomeno i Liguri o chi ha la seconda casa in Liguria potrà avere accesso al mare. Come pensate di far ripartire il turismo in Liguria? Potreste essere una regione pilota? Ma guardi, è quello che proveremo a fare. Ovviamente noi abbiamo applicato il decreto del Presidente del Consiglio declinando le esigenze del nostro territorio, che come lei ha sintetizzato, il turismo ovviamente una delle sue voci di prodotto interno lordo più importanti. Le previsioni della commissaria europea, mi sembrano vagamente iettatorie, anche se non è chiaramente in grado nessuno di prevedere esattamente di cosa succederà quest'estate, ma certamente noi dobbiamo cominciare a prepararci. Quindi abbiamo semplicemente dato il permesso per, con la cura del paesaggio, con i giardinieri, quella risistemazione degli stabilimenti balneari che è tipica di questa stagione, l'apertura dei piccoli cantieri di manutenzione delle seconde case, come dello spazio pubblico che è indispensabile al decoro del territorio e anche a un po' di lavoro delle persone, soprattutto quei cantieri che non hanno una densità di esseri umani tali da essere pericolosi per il virus. Credo che abbiamo semplicemente quello che dovrebbero fare le regioni e i comuni nel nostro ordinamento costituzionale, adattato delle norme nazionali alle esigenze locali. Dopodiché, oggi pomeriggio, io riunirò tutte le categorie della Regione Liguria con gli esperti, con i medici, con gli ingegneri dell'università, per capire esattamente come si potrà fare ad affrontare una stagione turistica e anche una ripresa alla vita, perché Genova e la Liguria prima di questa crisi erano anticongiunturali, crescevano più dell'Italia, hanno trovato un loro modello di sviluppo fatto di terziario, fatto di turismo, che certo questo virus ha incrinato pesantemente. Bisogna trovare delle regole che ci consentano di ripartire, ma guardando il mondo, insomma, qualcosa si trova. L'Olanda è già ripartita, la Germania e la Francia cominciano già a pensare a come ripartire a maggio, addirittura con scuole e università aperte, Singapore, la Cina stessa. Insomma, se si lavora, qualche idea viene. Carenza di strategia, vede, Toti? No, ho visto un po' di confusione all'inizio di questa crisi, quando siamo passati dal tutti chiusi in cantina allo spritz sui navigli. Poi ho visto ovviamente la crisi arrivare vera e abbiamo faticato non poco, ma sono orgoglioso di dire che la Liguria è la regione che è cresciuta di più in terapia intensiva per numero di abitanti, proprio perché abbiamo una popolazione anziana da proteggere. In queste ore stiamo distribuendo per primi le mascherine a casa con le Poste Italiane a tutti i cittadini, quindi ci siamo attrezzati, ci siamo rimboccati le maniche. Non bisogna mollare, io continuo a dirlo, nessuno deve pensare che l'inizio della fase 2 equivalga a liberi tutti, o bisogna, come nei momenti seri, che ognuno faccia il suo compito seriamente, cioè chi deve continuare a stare a casa per limitare quel brodo di cultura in cui cresce il virus, e c'è chi deve cominciare a mettere il naso fuori, altrimenti con quel meno 9% del PIL che leggo stamani sui giornali, quando riapriremo le porte e le finestre ci troveremo francesi, tedeschi, olandesi, spagnoli, americani che hanno occupato gli spazi delle imprese italiane. Senta Toti, tornando al fatto che la Liguria è una regione ad alta densità di anziani, una delle ipotesi della fase 2 quindi è lo scaglionamento per età, per esempio mantenere molto protetti gli ultrasettantenni. Voi state pensando a un'ipotesi di questo tipo e come si potrebbe realizzare? Perché faccio un esempio, se entrambi i genitori tornano al lavoro, perché fanno un lavoro che non si può fare da remoto, i figli non vanno a scuola, non possono stare con i nonni perché i nonni sono fragili, insomma si crea una serie di problemi alla società italiana a cui mi sembra difficile dare delle risposte immediate. Voi ci state pensando? Non c'è dubbio, Latella, che non sia facile. Noi ci stiamo pensando fin dall'inizio di questa crisi, tant'è vero che siamo una delle prime regioni a aver istituito un cosiddetto bonus babysitter quando abbiamo chiuso le scuole. Le famiglie con l'ISEE più basso possono accedere a contributi regionali per pagare una collaboratrice, una ragazza che possa tenere i figli ove questi lavorano, perché in Liguria in realtà io alcune opere non le ho mai fermate. Penso al Ponte Morandi, penso ai cantieri contro il dissesto idrogeologico, i grandi cantieri del fiume Bisagno, penso ai nostri porti che sono in completa ristrutturazione. Detto questo, è chiaro che l'apertura per fascia è suggestiva ma non facile, il cosiddetto modello israeliano. Per esempio, ieri sera, studiando tra le varie carte, perché la notte ormai studiamo anche questo, vedo che gli olandesi lasciano delle fasce nei negozi e nei supermercati alle fasce più fragili, tipo gli ultra 65 anni, ad esclusiva uso loro, tipo la mattina dalle 7 alle 9 possono andare nei supermercati e nei negozi solamente la popolazione più anziana, proprio per evitare che incontrino magari un ragazzo portatore sano o qualcuno che possa infettarli. E questo è già un modo per proteggere le categorie più deboli. Poi il fatto che ci sia in Italia una supplenza dei nonni rispetto alla mancanza di servizi sociali è endemica del paese, temo non lo risolveremo nelle prossime settimane, però far rientrare in fabbrica già le classi più giovani potrebbe essere un inizio per tenere un pochino più protette le persone che stanno a casa, insomma quantomeno gli si concede di non dover uscire, non recarsi in posti di lavoro che evidentemente saranno meno sicuri della loro casa. Grazie Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi. Una buona giornata. Cara Maria, noi ci risentiamo ovviamente domani mattina alle 8:20. E siamo contenti per Gianfranco che dice arrivati 600 euro. Bene, siamo contenti per Gianfranco da Rimini. Almeno quelli. Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ine e Francesco Saraffo i nostri autori. Noi invece ci risentiamo domani mattina alle solite 6:30. Ciao. Ciao.